Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dal studio di Radio Onde Furlane. Ma andiamo subito con la sigla di apertura di questo programma. Bene, questo era il brano Retribution, The Behind Enemy Lines, ben statunitense, che noi ogni giovedì usiamo come sigla di apertura di questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine e oggi 30 maggio. Ricordiamo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Bene, ora andiamo all'ascolto di questa band storica che non esiste più. Era una band italiana che si era formata a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 in quel di Pisa in Toscana. Loro erano i CCM, ovvero i Citachrome Motherfuckers, dopo alcune demo tape uscite proprio all'inizio degli anni 80, nell'86 fecero questo album dove ascoltiamo un paio di brani, album uscito nell'86 che si intitola Into the Void, loro sono i CCM. Bene, allora abbiamo ascoltato, insomma, siamo andati un po' per le lunghe, ma scusate per questioni tecniche, con l'ascolto di questa band toscana che si era formata alla fine degli anni 70, anzi direi proprio 79-80, e dal loro album Into the Void, uscito nel 1986, questi erano i CCM, Citachrome Motherfuckers, band di Pisa, che faceva parte anche di quello che fu il Granducato Hardcore degli anni 80. Comunque ora invece andiamo all'ascolto di una band che anche questa non esiste più, ma però è una band che si era formata e che insomma ha avuto tutte le loro uscite discografiche e anche concerti eccetera negli anni 90. Loro sono una band siciliana della zona di Messina, per l'esattezza Milazzo, in provincia di Messina, e devo anche dire che questi li abbiamo già messi in passato, questa band, in questo programma, ma oggi ancora di più, in modo significativo, perché c'è stata richiesta, anzi ciao Luca, e loro sono gli Alterazione. Sì, un saluto a chi ci ascolta, bentornate, bentornati a Zardins Magnetics. Allora, così in attesa di collegarci con la campada di Via Antonini, appunto a campada solidale con la resistenza palestinese che è stata così messa in piedi dagli studenti il 28 di maggio. E, parliamo di altre due cose che sono importanti, cioè di una rivolta che si è svolta al CPR di Gradisca la scorsa notte, quindi tra il 29 e il 30 maggio, praticamente un gruppo di persone in attesa di rimpatrio che erano presenti al CPR sono riuscite a impadronirsi degli estintori, insomma, e quindi hanno fatto contro alla polizia e sono riusciti a tenerli in scacco per un bel po' di tempo. Poi chiaramente sono arrivati i super rinforzi, ma sì, chiaramente noi esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà ai prigionieri del CPR e comunque ancora una volta, insomma, questo fatto è la dimostrazione che si può ribellarsi, che non è mai tutto perduto, diciamo, e che anche questi posti, veramente questi lager, hanno dei punti di debolezza che si possono attaccare, e i prigionieri lo sanno bene, perché appunto nella condizione di sopravvivenza riescono a capire, diciamo, quali sono i punti deboli e ad opporsi anche a queste forme, insomma, di violenza estrema rappresentate dal rimpatrio. E è di questi giorni, insomma, proprio del 29, anche una rivolta nel carcere minorile Beccaria, dove praticamente un buon numero di ragazzi detenuti, una settantina, si è così insorta a difesa di una, insomma, contro un provvedimento disciplinare che toccava un prigioniero che doveva essere messo in isolamento. E c'è stato appunto questa rivolta dei ragazzi, ci sono stati vari danneggiamenti, e no, va detto che appunto il Beccaria, ricordiamo che recentemente, insomma, 21 guardie penitenziarie arrestati, sì, di Milano, il Beccaria di Milano, appunto recentemente c'è stata questa situazione per cui 21 guardie carcerarie, pochi arrestati e molti altri sospesi, sono stati appunto arrestati e sospesi per aver compiuto azioni di tortura e di violenze contro i giovani reclusi. Ecco, e in seguito a questa cosa c'era stata già una rivolta il 7 maggio, con distruzione, insomma, di arredi e tentativi di evasione. E questo carcere minorile è un carcere con tanti detenuti, 380, ci sono i ragazzi detenuti in questo carcere, e ricordiamo che in seguito al discorso del decreto Caivano, i minori che sono dentro, o i giovanissimi, insomma, che sono dentro le carceri, sono aumentati considerevolmente. E tra l'altro, per dare dei dati che hanno un loro significato, perché danno l'idea di cosa sono questi luoghi, il 70% dei ragazzi entra per custodia cautelare. E cosa bisogna dire? Sia nel caso del CPR di Gradisca, cioè della rivolta del CPR di Gradisca, sia in questo caso qua della rivolta appunto dei giovani detenuti del Beccaria, chiaramente c'è la solita solfa, insomma, delle forze dell'ordine che si lamentano delle loro condizioni di insicurezza all'interno di queste strutture, quindi una specie di tormentone, diciamo, che rovescia la realtà, cioè man mano che avanza, diciamo, in maniera sempre più efferata lo stato di polizia e anche questa militarizzazione, insomma, della vita, ma anche del disagio che le persone possono esprimere, man mano che va avanti quindi questa macchina, diciamo, questo meccanismo, aumentano sempre di più le lamentele di quelli che mettono in atto queste forme di oppressione, sono gli artefici di queste forme di oppressione, che si lamentano appunto per la loro propria sicurezza, cioè quelli che agiscono appunto torture, violenze, sopraffazioni, eccetera, tutti i giorni, si lamentano della loro condizione di sicurezza, e questa è una cosa veramente abominevole. E niente, noi chiaramente sì, diamo tutta la nostra solidarietà sia ai prigionieri del CPR di Gradisca in rivolta, sia ai ragazzi del Beccaria. Ecco, siamo finalmente qui. Un saluto a tutti voi che ascoltate. Stiamo per così fare una chiacchierata con gli occupanti che dal 28 maggio si sono accampati nei giardini del Palazzo Antonini, Università di Udine, diciamo dipartimenti di studi umanistici, in solidarietà con la resistenza del popolo palestinese. È stata fatta una chiamata, sono state fatte delle avanzate delle rivendicazioni. Adesso così parleremo direttamente con i compagni, appunto i compagni che sono a pochi chilometri da qua, ma non possono abbandonare chiaramente la postazione, e quindi li abbiamo in linea. Un ciao intanto. Ciao. Ci senti? Ciao. Ecco. Ciao. Niente, ci raccontate un po' intanto quali sono le rivendicazioni che avete fatto, che le ho dette molto molto così in sintesi. Sinteticamente diciamo che il nostro percorso parte dalle rivendicazioni fatte con le mozioni presentate negli organi d'Ateneo, ed in particolare anche riprendendo in mano quella che è stato l'intervento nelle comunicazioni del Senato. Le nostre richieste erano che l'Ateneo esprimesse una posizione di solidarietà alla popolazione civile palestinese, come richiesto dalla mozione che già avevamo presentato a febbraio 2024 e che l'Ateneo aveva bocciato, che l'Ateneo mettesse in atto tutte le iniziative che gli fosse possibile in sostegno alla popolazione palestinese, e che abbiamo anche specificato all'interno anche del nostro comunicato che abbiamo mandato agli organi di stampa, e soprattutto che l'Ateneo pubblicasse una lista delle collaborazioni in corso tra l'università e gli enti israeliani di ricerca, con particolare attenzione all'apparato della guerra, al fine di poter mettere fine a queste collaborazioni e al fine di poterne noi prendere coscienza e prenderle in analisi. Sì, l'atteggiamento diciamo del rettorato, degli organi, insomma, delle autorità diciamo universitarie, qual è stato di fronte a queste istanze che avete presentato? L'atteggiamento è stato di totale chiusura, mm-hmm. al punto che il rettore durante la presentazione in Senato del tema è uscito, e questo appunto è stato diciamo un atto gravissimo, e che cerchiamo di a cui diamo la possibilità di rimediare venendo invitandolo a venire alla nostra accampada domani, il 31. Con poche speranze, però, perché appunto fino ad ora il atteggiamento è stato appunto totale chiusura. Noi non vogliamo però rinunciare a dialogo, a rivendicare le nostre richieste e quindi anche ad ottenere risultati concreti. Ok, quindi avete fatto questo gesto di apertura per domani nei suoi confronti. Esatto. Sì. Vediamo cosa succederà. Noi comunque non ce ne andiamo finché non otterremo quello che chiediamo. Bene. E poi se volete raccontarci un po' come sta andando, diciamo, l'occupazione. Siamo già al terzo giorno, no? Sì. Di occupazione, siete nelle tende, ci sono diversi iniziative che state facendo. Dall'inizio tutto è andato abbastanza bene, la risposta non so come dire, è stata molto buona. Stavamo facendo non solo siamo qua per stare, abbiamo fatto le elezioni, si è parlato del conflitto alla Grosaliano. Uh-huh. Sono state invitate compagne che sono state a Gaza negli ultimi mesi e ci hanno raccontato un po' la situazione. Stiamo facendo delle cose anche per fare al resto della città di partecipare di tutto questo. E la risposta devo dire che non l'aspettavo così e siamo contenti. Bene. Andiamo avanti ancora un po' così. C'era venuto in mente questo che magari per il momento può sembrare che fa un po' ridere in tre giorni, ma in realtà no, che un'occupazione in realtà permette a voi, insomma, che siete lì dentro l'università, siete appunto studenti, state studiando, state facendo un percorso di, insomma, dentro questa struttura. Normalmente avete le vostre routine, le lezioni, gli esami, eccetera, eccetera. Ecco, l'occupazione permette di trascorrere un sacco di tempo insieme, di condividere, insomma, avere delle, bene o male, momenti di condivisione che normalmente non vi sono permessi, e soprattutto appunto anche una dimensione così è anche orizzontale, no? Come l'avete impostata, e soprattutto a noi piace, anche perché senza capi, e questo è un nostro giudizio. Se magari avete anche voi un ragionamento su questa questione. Sì, sicuramente è un momento in cui abbiamo la possibilità di condividere, soprattutto di scambiare opinioni riguardo questioni che ci stanno molto a cuore e anche di autogestirci, quindi uh-huh. Abbiamo effettivamente dimostrato di essere in grado di prendere in mano una situazione, creare uno spazio sicuro per tutti in cui la prima regola è il rispetto e stiamo, a mio avviso, condividendo dei momenti importanti e proprio le lezioni di storia sono seguite da dibattiti, assemblee in cui c'è la possibilità di esprimere la propria opinione riguardo non soltanto il conflitto arabo-israeliano e quindi quello che sta avvenendo in Palestina, ma per esempio oggi abbiamo parlato delle guerre in Congo e della situazione dei migranti, quindi credo che sia molto importante che questo stia avvenendo all'interno dell'università e che tutti possano partecipare, perciò sì, è una grande dimostrazione. Sì. No, tutti, certo, all'interno dell'università, anche naturalmente tutti in senso lato, anche lavoratori, sì. Lavoratrici, non disoccupati. È chiaramente aperta a tutti, non è chiuso l'accesso, quindi ecco, qualsiasi persona, studente, certo. Delle superiori, lavoratore o facente parte nulla facenti anche anche nulla facenti veramente. No, nel senso che, a parte gli scherzi, che è importante anche questo, questa questione, no, di che l'università non è in realtà un, come dire, un fortino per cui ci possono partecipare solamente gli addetti ai lavori, perché magari tante volte anche la critica che viene fatta, no, alle mobilitazioni studentesche è proprio questa, di coinvolgere anche altri soggetti. Invece giustamente l'università è di tutti, cioè è uno spazio che dovrebbe essere aperto a tutti, insomma, a tutta la società, no? E quindi anche l'occupazione ha questo senso di, se vogliamo, anche di abbattere, diciamo, le frontiere tra le diverse tipologie di persone. Questo secondo me è importante, insomma, una, anche questa è un'esperienza, sì, bella. E niente, volete dirci quali sono le prossime iniziative magari di questi giorni? Magari anche i riferimenti soliti, insomma, di, per andare a trovare, ecco, le informazioni riguardo appunto gli appuntamenti, ecco. E attualmente la nostra comunicazione passa su, in particolare sulla pagina Instagram che abbiamo, e Facebook che abbiamo impostato, che si chiama Comitato per la Palestina _ Udine, e qua appunto pubblichiamo di giorno in giorno, insomma, sia il programma che le degli interventi, sia le eventuali iniziative e azioni che compieremo durante la giornata. E sempre sulla pagina Instagram si può trovare il canale Telegram dal quale poter raccogliere eventuali avvisi e qualunque tipo di informazione. In ogni caso, appunto, l'invito che facciamo è sempre quello di passare di qua, certo, e di chiedere anche direttamente a noi certo, che cosa stiamo facendo, cosa facciamo, e anche di semplicemente di fermarsi e parlare un attimo senza alcun tipo di problema, perché è proprio quello che ci auspichiamo ed è quello che vogliamo. Benissimo. Bene. Non so se volete aggiungere qualcos'altro che vi sta a cuore, magari, non so, che abbiamo trascurato. Ma diciamo di venire, cioè, sì, questo è quello che, quindi invitiamo caldamente, invitiamo a partecipare, invitiamo le persone a sentire questo tema come lo stiamo sentendo noi, per tutte le implicazioni che ha, non soltanto anche al di là poi del conflitto israelo-palestinese, proprio come simbolo di questa lotta nell'attualità e nel sistema che noi contestiamo sotto diversi altri punti di vista, quindi invitiamo la gente, le persone, a venire, a partecipare, a informarsi e a non rimanere neutrali di fronte alle atrocità che si stanno compiendo in questo momento a Gaza e in Palestina tutta. Quindi questo è il messaggio ultimo che possiamo lasciare. Bene, allora sì, io condivido questo messaggio. Ecco, mi sento di dire che la forza, diciamo, dei palestinesi è anche questa, che riescono, pur nella loro condizione, a smuovere, sono riusciti nella loro condizione di estrema tragedia, però sono riusciti con la loro forza e con il fatto che non si sono mai piegati a dare forza anche a noi, no, che siamo qua, perché magari tante cose, tante mobilitazioni, diciamo, che sono partite, insomma, in tutto il mondo, proprio secondo me raccolgono questa forza, e quindi è una cosa importante per tutti. Qualcuno ieri al dibattito che avete fatto sulla storia della Palestina diceva che appunto la resistenza palestinese è la resistenza di tutti noi, e penso che questo sia vero, insomma. E quindi niente, quindi abbasso gli oppressori, lo dico io, e viva le occupazioni, anzi 10, 100, 1000 occupazioni. Grazie. E veniamo a trovarvi, ciao. Saluto, ciao. Ci aspettiamo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. passione. Bene, intanto stiamo ascoltando questa band che era esistita negli anni 90, loro sono gli Alterazione della zona di Messina, Milazzo, e ora ci ascoltiamo un loro brano che si intitola Noia, e volevo ricordare che questi brani sono tutti estrapolati da una discografia completa che è uscita recentemente, dove raccoglie appunto tutti i brani editi da questa band tra il 1995 e il 1999. Così, facendo un salto territoriale, passiamo dal discorso della Palestina e appunto di questo colonialismo assassino messo in atto dallo Stato di Israele, alla Nuova Caledonia, o Kanaki per meglio dire, cioè terra dei Kanak. E lo facciamo appunto per parlare di questa, avevamo annunciato anche lo scorso giovedì, di questa rivolta che non è la prima rivolta, che è scoppiata comunque il 13 maggio scorso in questo territorio. Intanto diciamo che, per collocarlo, che è un piccolo arcipelago, si trova nell'Oceano Pacifico sud-occidentale, a 1300 km dalle coste dell'Australia e a una roba mostruosa tipo 17.000 km dalla maledetta Parigi, per loro maledetta. E allora, Kanaki o Nuova Caledonia, colonia francese. È stata, beh, intanto l'arcipelago era stato scoperto da James Cook, e scoperto, diciamo che gli europei erano arrivati lì e a metà del XIX secolo diventa colonia francese. E diventa colonia francese, e che cosa fa la Francia? Praticamente vi colloca, insomma, delle colonie, dei penitenziari, quindi diventa una colonia penale, e per vari tipi di, diciamo, sovversivi, tra cui anche i comunardi, quindi quelli che vengono dopo la repressione della comune, vengono mandati, tantissimi comunardi vengono mandati proprio qua in Nuova Caledonia. E tra l'altro, insomma, è appena uscito un libro delle Edizioni Anarchismo di Charles Malato, che si intitola proprio Dalla Comune all'Anarchia, ed è la storia di questo, che allora era un giovane uomo, insomma, quando arriva appunto in Nuova Caledonia al seguito della sua famiglia, e racconta tutti questi viaggi in nave che duravano 6 mesi, insomma, e dove moltissime deportati, appunto, moltissimi destinati alla deportazione in Nuova Caledonia, poi morivano di stenti durante il viaggio, insomma, così. E quindi la Francia ne fa una colonia penale, però poi dopo ne fa anche una colonia di ripopolamento, e quindi comincia a espandersi ai danni della popolazione autoctona, insomma degli indigeni, i quali subiscono, insomma, tutta una serie di violenze, di spossessamenti, insomma, e di oppressioni e di negazioni, e pian piano, insomma, appunto la terra dei Kanak si riempie di coloni, e anche questa è una similitudine con la Palestina, coloni che vengono chiamati, appunto inviati, diciamo, dalla madrepatria Francia, in cambio di soldi, insomma, e vanno questi coloni, ci sono anche tanti disperati, naturalmente, che non hanno niente da perdere, diciamo, e non hanno più nulla, e quindi si spingono in questa avventura, ma ci sono anche tanti che si arricchiscono poi. E le terre vengono sottratte, appunto, agli indigeni, e c'è il solito meccanismo delle coltivazioni e dell'allevamento intensivo, e poi c'è questa terra rara, questo materiale raro, prezioso, insomma, questo minerale, il nickel, che viene utilizzato, insomma, viene sfruttato prevalentemente, appunto, da questi expat, diciamo, che arrivano dalla Francia. E poi c'è anche una percentuale di popolazione, insomma, che viene dai dintorni, diciamo, di questo arcipelago. Allora, sì, per ritornare all'inizio, dicevo, ci sono delle similitudini, cioè facciamo delle similitudini con la situazione della Palestina, nel senso che anche in questo caso si arriva a identificare un momento, cioè il momento del 13 maggio, in questo caso, come il 7 ottobre per la Palestina, in cui c'è una insurrezione, insomma, c'è una rivolta seria, impegnativa, che mette a dura prova anche la grandeur, appunto, degli stati che si trova di fronte, e avviene nella, diciamo, narrazione predominante, avviene che come se non ci fosse null'altro prima, no? Di punto in bianco c'è questa cosa che va repressa nella maniera più feroce. E Macron infatti ha dichiarato lo stato di emergenza, quindi col coprifuochi, queste robe qua, e poi ha inviato un casino di gendarmi, insomma, a supporto dei coloni che sono prevalentemente quelli supportati dallo Stato francese, sono i coloni di estrema destra che vorrebbero praticamente impossessarsi, diciamo, totalmente dei territori. E esistono però anche degli indipendentisti, chiaramente anche partiti, diciamo, indipendentisti composti da appunto nativi, ma esiste anche proprio un movimento, diciamo, di base che da un lato vuole proprio farla finita del tutto col colonialismo, quindi vuole emanciparsi dalla Francia, ma dall'altro lato anche dà voce al disagio e alla povertà e alla situazione di minorizzazione, insomma, che vivono appunto soprattutto i giovani Kanak, scusate. E, ecco, quindi insomma queste rivolte in che cosa sono consistite? Ci sono stati diversi blocchi stradali, saccheggi di supermercati, negozi di questo tipo, incendi di macchine, soprattutto nella capitale Nouméa, che è una capitale, diciamo, considerata bianca. E cosa si può dire ancora del intanto possiamo dire qualcosa sui meccanismi del colonialismo, che come hanno lavorato, diciamo, i meccanismi del colonialismo anche in questa terra specifica. Allora, intanto diciamo che la Francia amava glorificare il suo impero coloniale e per fare questo presentava i popoli indigeni di cui si era appropriata, diciamo, delle cui terre si era appropriata, in occasione di grandi mostre a Parigi. E cosa faceva? Appunto, venivano portate delle persone provenienti dalle diverse colonie e venivano messe in scena in qualche modo, insomma, venivano, diciamo, teatralizzati dei villaggi caricaturali per dimostrare appunto quanto la Francia avesse portato la civiltà ai selvaggi. E nel 1931 ci fu l'ultima esposizione internazionale coloniale di Parigi, che praticamente in questa esposizione internazionale coloniale venne allestito il padiglione della Cocincina, o il villaggio negro. E proprio in questa occasione ci furono questi alcune, insomma, decine di Kanak che praticamente vennero portati dalla Nuova Caledonia fino a Parigi, promettendo loro che sarebbero arrivati nella Francia metropolitana per presentare la loro cultura. E invece non furono nemmeno portati all'esposizione universale, ma vennero portati in uno zoo, e praticamente insieme a in un recinto con i coccodrilli, e vennero presentati come cannibali e obbligati a fare spettacoli, insomma, parodistici, e appunto, insomma, quindi questa forma anche di disprezzo e di annientamento, no, dei popoli nativi da parte dei colonialisti. Questo discorso dei cannibali, tra l'altro, è una roba particolare, perché anche Charles Malato, di cui parlavo prima del libro, insomma, Dalla Comune all'Anarchia, in questo libro, che ha anche delle velleità, tra virgolette, cioè è una narrazione, no? Autobiografica, insomma, anche ricca di particolari, anche bella da cioè interessante da leggere, anche nello stile, ma diciamo, facendo proprio lo spirito di quel tempo lì, cioè del 1800, ha anche, diciamo, delle velleità di studi antropologici. Lui fa un po' di così osservazioni sulla popolazione Kanak e fa dei suoi commenti così. E questa roba comunque dei cannibali, cioè del fatto che praticamente i bianchi costituivano un lauto banchetto per questi indigeni, viene fuori di continuo, insomma una roba abbastanza disturbante, almeno per come la per come l'ho vissuta io, nel senso anche da un soggetto che comunque aveva sviluppato, veniva dalla Comune di Parigi, quindi comunque da una cultura di quel tipo, e aveva sviluppato poi una sensibilità anarchica, però scattavano queste cose qua. E invece non ha avuto nessun tipo di pregiudizio nei confronti dei Kanak la rivoluzionaria Louise Michel, che anche lei è deportata appunto dopo la Comune di Parigi, la quale invece diede addirittura una mano alle varie rivolte, perché ci furono varie rivolte nel corso di questi due secoli, e si può ricordare che tra la rivolta che venne diciamo guidata da Atai tra il 1853 e il 78 e il 1878. Allora proprio Atai guidò questa insurrezione e poi però le cose andarono male, fu ucciso durante un'operazione militare e venne anche decapitato, e praticamente questo assassinio venne addirittura esposto, il cranio insomma di questo guerriero, come esempio di selvaggio sovversivo, e la popolazione Kanak riuscì a riprendere possesso di questo cranio, che non era per loro, che non è per loro chiaramente una roba priva di significato, cioè un oggetto così folcloristico, ma un significato reale, profondo e anche che insomma storico ed identità, diciamo. E solamente nel 2014 è stato restituito questo cranio alla popolazione. E appunto dicevo che Louise Michel ha fatto amicizia nei suoi scritti, insomma racconta che ha fatto amicizia con i Kanak, e appunto scriveva: anche loro lottavano per la loro indipendenza, per la loro vita, per la libertà. Io sono con loro come lo ero con il popolo di Parigi, ribelle, schiacciato e sconfitto. E un aneddoto: prima di morire Louise Michel fece indossare ad Atai, appunto a questo guerriero Kanak, un pezzo della sua sciarpa rossa della Comune in segno di solidarietà. E questo insomma sì, per dire che anche questa rivolta insomma che sta avvenendo così lontano da noi, sì, così è una cosa significativa comunque, per quanto appunto questi imperi, come anche l'impero francese insomma, abbia veramente delle forze sconfinate, diciamo, una potenza militare inimmaginabile per degli indigeni, però è significativo che gli oppressi non si arrendono facilmente. Magari possono passare decenni in cui c'è una bassa conflittualità, non si riesce a realizzare qualcosa, delle azioni insomma significative, però poi prima o poi le cose ritornano fuori, non è mai finita. E un'ultima cosa che volevo dire rispetto alle rivendicazioni che ci sono, perché c'è appunto, ci sono vari movimenti all'interno degli indipendentisti, chiamiamoli per semplificare, e ci sono varie correnti diciamo, e tutte si oppongono comunque al discorso di questa alleanza tra il governo centrale francese e l'estrema destra e anche le milizie dell'estrema destra che spadroneggiano appunto nell'isola. E sì, ecco, non ho detto che la rivolta è stata scatenata da una legge che prevede di garantire il diritto di voto agli expat che sono residenti, diciamo, hanno la cittadinanza, sono residenti in Nuova Caledonia da almeno 10 anni. Questa qua è stata la miccia perché chiaramente gli indigeni rappresentano il 40% della popolazione e l'intento dello Stato francese è quello di popolare di europei il più possibile e quindi di sottrarre sempre di più territorio agli indigeni, e per questo questa è stata la goccia, diciamo, che ha fatto traboccare il vaso. E allora, secondo me è interessante anche questo, che al centro del progetto politico indipendentista, soprattutto di questo fronte di liberazione nazionale canac e socialista, c'è l'idea di ridare centralità al popolo autoctono, no? Che vive sull'isola da più di 3.000 anni, però anche di accogliere al suo interno tutte le comunità che vivono in Nuova Caledonia. Cioè, per questa popolazione di Kanak, i discendenti dei bagni penali, i nipoti dei coloni inviati dallo Stato coloniale, gli immigrati in cerca di avvenire che provengono appunto dalle altre isole del Pacifico e dall'ex Indocina, che sono anche loro, peraltro, diciamo, derivano dal colonialismo francese, tutte queste, insomma, questi soggetti sono vittime della storia e in quanto tali hanno diritto al riscatto, che si può ottenere solo tramite la conquista della dignità permessa dallo smantellamento dell'ordine coloniale. Quindi anche qui non c'è una, insomma, c'è un'attenzione, una solidarietà verso tutte le vittime appunto dell'ordine coloniale, non c'è una posizione arroccata. E quindi auguriamo forza anche al popolo Kanak. Stiamo ascoltando i Giuda, band che era esistita nei primi anni 2000, questo è il loro primo album datato 2007. We'll be right back. E aggiungiamo così altre notizie su questo album, che vabbè, registrazioni comunque effettuate nel 2006, comunque l'album uscito nel 2007, probabilmente si sente in sottofondo. Comunque questo esordio per questa band fu grazie ad una etichetta giapponese, e la band appunto è Giuda. Non vorrei sbagliarmi, ma era così un misto tra gente toscana, lombarda, che comunque poi si trasferì in quel di Bologna, e io credo che questo album fu anche gli esordi della loro etichetta Agipunk. Sempre Zardins Magnetics, per chi si fosse sintonizzato e si è perso gli ultimi interventi e gli ultimi commenti, questa è una trasmissione che va tutti i giovedì sera in diretta, siamo ospiti di Radio Onde Furlane, ma ci trovate, abbiamo così dei nostri anche canali che ricorderemo in chiusura, essendo diciamo alla fine di maggio del 2024, in questi giorni i media, ecco, i canali, invece quelli più mega, diciamo, quelli di altoparlanti dei padroni del potere, ci hanno voluto mettere in evidenza il fatto che sono trascorsi 50 anni da una delle più orribili stragi, diciamo, degli anni 70, stragi di Stato, stragi fasciste, che appunto iniziarono, abbiamo detto altre volte, ma non c'è niente di male a ripeterlo, iniziarono il 12 dicembre 69, diciamo, l'obiettivo erano degli attacchi militari, l'obiettivo era colpire indiscriminatamente persone inermi, chiunque capitava a tiro, per generare terrore. E e promuovere una svolta autoritaria, insomma una girata di vite significativa, insomma, che non si è verificata per puro, diciamo, susseguirsi di casi fortuiti, dai, diciamo. Si arriva appunto al maggio 74, storicamente appunto è l'anno dei referendum sul divorzio, di una, insomma, di una diffusione delle lotte, appunto di una diffusione di quell'ondata di lotte anti-autoritarie dell'autunno caldo, appunto, che si era improvvisamente congelato, si era anche cristallizzato in nei famigerati gruppi extraparlamentari come Lotta Continua, eccetera eccetera, Avanguardia Operaia. Viene fatta, appunto, viene organizzata questa piazza di Brescia, una bellissima piazza della città, della città di Brescia, in protesta, con una serie di eventi, appunto, dove c'erano continui attentati, esplosioni di rottaie, bombe in treni, ordigni nella Casa del Popolo, sparsi per l'Italia. I sindacati, appunto quelli di Stato, chiamano questa manifestazione la mattina del 28 maggio 74. Ecco, questi sono i fatti: appunto esplode una bomba, quindi in una manifestazione antifascista, evidentemente con la sfacciataggine, appunto l'unico caso, appunto, di questo tipo. Poi le bombe nei treni, appunto, non hanno questa caratteristica, era proprio un attacco diretto a un momento in cui le persone reagivano al clima pesante dei fascisti, delle strutture fasciste, delle squadre fasciste, neofasciste, neonaziste. Però, ecco, il punto lo facciamo, finalmente arrivo a quello che volevo dire, è che nel cinquantenario, che comunque è una data tonda importante, e però cosa è successo? Viene consolidata la tesi, meno male, che i sindacati, con la loro grande diciamo, controllo, il loro grande sangue freddo, la loro grande capacità di incassare gli attacchi, non hanno reagito, e la democrazia ha vinto, no? Questo è stato il disco incantato che ha suonato questo martedì. Questo martedì, insomma, che corrispondeva all'anniversario. E approfittiamo di questo, insomma, di un intervento che ha fatto lo storico ed ex lotto armatista, ex brigatista Paolo Persichetti. Dice: 50 anni dopo la strage di Brescia, 50 anni dopo la strage di Brescia, le istituzioni si assolvono. Quindi duplice assoluzione, la capa del governo ha ignorato la matrice neofascista della bomba, e il Presidente della Repubblica ha scagionato lo Stato da ogni responsabilità in merito, insomma. Nonostante, adesso non rientriamo in tutta la vicenda, ma comunque a livello, diciamo, storico, poi è emerso, oggi ormai è emerso, al di là anche della verità giudiziaria, ma storicamente è emerso quello che, appunto, nel movimento degli 70 si sapeva, si era, cominciava a capire che la Democrazia Cristiana aveva abbandonato la strategia a tensione, appunto, e cercava di rinforzare, appunto, il rapporto col Partito Comunista, di impostare una falsa, diciamo, adesso la dico male, una falsa collaborazione col Partito Comunista, per poi dargli un calcio in culo e rinforzare ancora di più la sua struttura, che poi diventa cioè questo discorso del modernizzarsi della Democrazia Cristiana, del entrare nei territori, della svolta, appunto. C'erebbe da fare anche qua discorsi su come la Democrazia Cristiana ha fatto questa svolta nella seconda metà degli anni 70, in parallelo anche con comandavano le vertenze della Fiat, per dire, per fare un esempio, ecco, che, ecco, magari le Brigate Rosse avevano analizzato questa iniziale, loro dicevano, progetto neogollista, con un leggero ritardo, hanno cominciato a capire qualche anno dopo che, appunto, questo progetto neogollista non c'era più, cioè questo progetto di potere che collaborava con la destra della Democrazia Cristiana, in realtà, appunto, la Democrazia Cristiana aveva in testa un'altra, ha mollato questo progetto iniziale, per abbracciare un'altra strategia molto vincente, ecco, nei confronti purtroppo del movimento, che è stato sconfitto. E andiamo avanti in questo articolo. La magistratura indaga sui progetti di golpe. Tra il 73 e il 74 vengono a galla, grazie a diverse inchieste condotte dalla magistratura, una serie di progetti di golpe di segno politico diverso, anche se tutti caratterizzati dal tentativo di scongiurare il pericolo comunista. Dall'indagine sulla Rosa dei Venti, portata avanti dal giudice istruttore Tamburino, da cui emergeva traccia della presenza di strutture parallele interne agli apparati statali coinvolte in attività golpiste e stragiste, traccia della presenza di strutture parallele. Testimone centrale nella ricostruzione di questa rete sarà il generale Amos Piazzi, generale d'esercito. In anni più recenti la ricerca storica ha focalizzato meglio quanto avvenuto. Accanto alla struttura NATO europea Stay Behind, che in Italia aveva preso il nome di Gladio, apparato di difesa non ortodosso gerarchicamente dipendente dai comandi NATO, approntato per far fronte a un'eventuale invasione militare delle truppe del Patto di Varsavia, composto essenzialmente da membri dell'ex Brigata Osoppo, partigiani bianchi, antifascisti e anticomunisti, di cui si scoprì l'esistenza nell'estate del 1990, dopo la vicenda del Piano Solo, venne messa in piedi una seconda struttura che dipendeva gerarchicamente dal Ministero della difesa. Il Piano Solo era nel 64, solo si intendeva solo l'arma dei carabinieri. Si trattava dei nuclei per la difesa dello Stato, apparato misto composto da membri selezionati degli uffici informativi d'esercito, dei servizi, dei carabinieri e di civili di dichiarata fede neofascista. Tra i membri di questa struttura nel 73 vi erano molti ordinovisti. Ecco, poi altri due appunti, insomma, su queste strutture, appunto, infuriate del fatto che lo Stato le aveva precipitosamente abbandonate, e, insomma, volevano vendicarsi, appunto, attaccavano direttamente. Ecco, tutto per dire come invece oggi si fa sponda su questo discorso della strage di Piazza della Loggia, per dire come, appunto, l'antifascismo coincide con lo Stato democratico che ha oggi, sappiamo che, appunto, rinchiude i migranti nei CPR, che li perseguita, che chiude le frontiere, che manda l'esercito nelle strade, che tiene in piedi il 41 bis, che, insomma, appunto, mette a tacere ogni voce che non si piega a quello che è richiesto. Niente, un'altra di quelle distorsioni, appunto, che purtroppo sì, diventano delle, come delle, appunto, anche queste delle, dei prismi per a cui guardare in maniera distorta agli eventi che sono successi, quando invece, appunto, le cose forse sarebbero state diverse se quel giorno lì, invece di, appunto, sfilare in silenzio o di trattenere la rabbia, magari quella rabbia lì fosse stata convogliata in altra maniera. A quest'ora magari saremmo chissà, magari senza CPR, chissà, forse avremmo qualche, la realtà potrebbe essere anche poco ma diversa, magari un po' più umana. Thank you. Bene, sono le 21:27, quindi anche sfumiamo, anzi teniamo in sottofondo questa band che ci stiamo ascoltando, loro sono i Conflict, comunque diciamo quasi omonimi alla band anarcho-punk inglese Conflict, e questi sono Conflict con le K anziché le C, e comunque sono una band slovacca, una band slovacca, e questo è un loro album No Return uscito nel 2001. Ricordo che siamo in diretta radiofonica e il programma ora termina, sono le 21:30, stiamo trasmettendo da Radio Onde Furlane da Udine, oggi 30 maggio. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, la trasmissione si chiama Zardins Magnetics. Se volete un nostro contatto, noi ogni volta lo ripetiamo alla fine trasmissione, se volete scriverci tramite posta elettronica potete farlo attraverso ovviamente l'internet, scrivendo a liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendo in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che questa trasmissione, ma anche le trasmissioni avvenute nelle settimane scorse, anzi nei mesi e negli anni scorsi, potete riascoltarli nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, ci risentiamo il prossimo giovedì, salutiamo tutti, anche chi ci riascolterà domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Bene, ciao a tutti, vi lascio con questi Conflict. Ciao, al prossimo giovedì. Ti po tvojom nie stará sa o nič, mysle pia ľudí, nebude si schodiť. Nechce byť obeťo vlastní ľudí, nechce byť obeťo konformity. Ruky doma vstupovať, komu kam a prečo, toho kola pochodovať, povedzte mi na čo. Nechce byť obeťo vlastní ľudí, nechce byť obeťo konformity. Keď dnes sa mi polopravne trápia moje ruši, chce od lásky na ulici, mám už prázdno v duši. Nechce byť obeťo vlastní ľudí.